Benvenuti e buonasera a tutti allo show del lunedì sera. Questo è Non aprite con la persiana 1.3. Qui avete già sentito Emilio che ci ha salutato, poi abbiamo Carletto, Francesco ed Andrew. Buonasera. Buonasera. E poi ho colui che mi canterà la sigla di questa sera. Buonasera Laura. Mi hai salutato già prima. Sevi, ti parlavi, ci proprio guarda. Abbiamo ecco. Abbiamo colui che mi farà la sigla di questa sera, amici di Bagnini, con il nuovo CD, abbiamo ci ha detto prima che andare su. Poi innanzitutto cari amici, volevo ringraziarvi perché mi avete dato l'amicizia su Facebook, grazie a tutti. Bravo, bravo, amici! Questo sì che è parlare da signore. Adesso vi farò ascoltare una mia canzone, mai ascoltata. E questa è titolata E andare su. E andare su, su, su nel cielo, giù, giù, giù nel mare, sempre pronto al cuore. Amare su, su, su, fortemente, giù, giù, giù nel mare, su, su, su. E andare, amici, applaudire! Ciao, amici, dai, forza! Ciao! Ecco colui che prenderà il posto di presentatore. Mutalax! Va bene, io non saluto colui che mi sbaglia sempre di tutto. Salutiamo colui che mangia sempre, lo voglio salutare. Lo saluto, salutiamo Margheritoni, salutiamo zia Cristina, Massimo Maneggio che per fortuna stasera non è con noi. Ringraziamo Gesù Cristo, ne ha fatto una grazia e ci ritroviamo tra poco perché ho già detto tutto.